Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Per scelta o perché obbligati, per salvare il pianeta o per cercare di rilanciare un minimo l'edilizia o anche solo per raggranellare qualche finanziamento europeo, sta di fatto che sono moltissimi comuni italiani impegnati sul tema dell'efficienza energetica, nel tentativo di praticarla direttamente o almeno di favorirne la diffusione sul territorio comunale, come per esempio è previsto dal patto dei sindaci a cui hanno aderito migliaia di comuni italiani. Comuni che però, quando non sono bloccati dalla mancanza di fondi, sono inchiodati dal famigerato patto di stabilità che impedisce di spendere anche i soldi disponibili. Insomma, in questa cornice, di cui ormai si parla tutti i giorni, mi pare possa assumere un certo rilievo un'iniziativa della città di Torino, un progetto denominato Efficienza Energetica nel Terzo Settore, di cui parliamo con l'assessore alle politiche per lo sviluppo, l'innovazione, lavori pubblici, ambiente verde, igiene urbana e Smart City, Enzo La Volta. Buonasera La Volta. Buonasera, buonasera a voi. Assessorato lunghissimo il suo. Lunghissimo, sì, sono anche alto. Senta, allora, efficienza energetica nel terzo settore, qual è l'idea di fondo? Ma noi abbiamo più di 830 immobili, molti di questi immobili sono edifici scolastici, c'è questa idea che riguarda un'altra porzione del nostro patrimonio che è in concessione, che è messa a disposizione di molti organismi no profit e più in generale del terzo settore. Ecco, questa è una situazione, per questo è interessante, che non è che riguardi solo Torino, no? Ci sono molti edifici di proprietà comunale, provinciale, regionale, statale, che sono dati in concessione a delle organizzazioni no profit, alcune molto povere, altre meno, no? L'idea è semplicissima, è consentire a enti e organizzazioni no profit di realizzare diagnosi e interventi di qualificazione energetica grazie ad un finanziamento a condizioni agevolate garantito, nel nostro caso, da Banca Prossima, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa. In pratica, partendo dal proprio piano di risparmio energetico, l'organizzazione no profit può scegliere un finanziamento la cui rata di rimborso viene determinata in funzione del risparmio atteso sulla bolletta energetica. In questo modo l'impatto dell'investimento sui flussi finanziari è, diciamo, neutralizzato, e a partire dal momento in cui si completa il rimborso del prestito, tutto il risparmio energetico diventa per il cliente cashflow positivo. E questo è il modello ESCO che si cerca appunto di diffondere il più possibile in Italia, ma che poi spesso si scontra con dei problemi operativi, tipicamente il reperimento dei capitali iniziali. Ecco, ma questa operazione che avete messo in piedi serve più a mettere in condizioni degli enti che non ce la fanno altrimenti, mettere in condizione di fare questi interventi di riqualificazione, o invece serve a stimolare delle associazioni, penso a fondazioni, che magari una certa disponibilità ce l'hanno ma che non stanno pensando di agire in questa direzione? Il terzo settore è ampio, io credo che questo tipo di opportunità possa essere messa a disposizione, e questo è il nostro intento, sia dei soggetti poco bancabili ma anche dei tanti soggetti, e credo che ce ne siano diversi, che magari avevano messo in cantiere di poter svolgere un'attività di ristrutturazione, ad esempio, di rimessa in sicurezza di un edificio, di un contesto, che magari con un'opportunità di questo tipo, riorientandola a interventi di efficientamento energetico, potrebbe essere più praticabile e vantaggioso. Senta, operativamente che tipo di agevolazioni ottengono però queste organizzazioni no profit? Ma devo dire che oltre a quello che Banca Prossima fa, cioè attivare una linea di credito, che è una banca specifica, specializzata nell'erogare crediti agli organismi no profit? Sì, è la banca di Intesa San Paolo interamente dedicata al terzo settore. Quindi oltre allo strumento, la linea di credito che Banca Prossima mette a disposizione con dei tassi di interessi molto contenuti, proporzionati naturalmente al capitale richiesto, l'intervento importante lo fa anche la città di Torino, venendo incontro sull'attività di diagnosi, di audit energetico. Noi abbiamo la Fondazione Torino Smart City che è organizzata per questo, noi svolgiamo 4.000 pratiche energetiche edilizie all'anno di supporto all'amministrazione, alla città, quindi insomma ci sono competenze che verificheranno quindi la congruità del progetto che verrà proposto naturalmente dalle ESCO che vengono ingaggiate, e mettono nelle condizioni anche di avere, insomma, elementi di consapevolezza piena da parte dell'interlocutore, che è quello che poi accederà al finanziamento. Sì, insomma, sia chi ci mette i soldi sia chi li riceve ha un quadro chiaro della situazione grazie a questo audit energetico che sostanzialmente voi svolgete come comune gratuitamente, se ho ben capito. Sì, noi vorremmo metterci nelle condizioni di poter facilitare l'accesso accesso a questo strumento che è la ESCO, che è uno strumento sconosciuto ai più, cercando di dimostrare che il pubblico ci crede e si fa anche garante, diciamo, della bontà e della congruità del progetto. E cercando di dimostrare che conviene anche farlo, perché i conti tornano. Tant'è vero che molti progetti, appunto, non partono perché manca questa fase iniziale di audit che chiarisce che le cose stanno in piedi dal punto di vista economico. Grazie, assessore, La Volta. Grazie a lei per l'ospitalità. Grazie.